Hashtag Autotrasporti. Un saluto da Andrea Ferro e bentrovati a questo nuovo speciale di Hashtag Autotrasporti, il programma che Radio 24 dedica al mondo dell'autotrasporto, della logistica e della mobilità, il racconto di un settore cruciale per la nostra economia e sul quale si gioca una parte significativa delle chance di ripresa dell'intero sistema paese. Un racconto a 360 gradi su quanto ruota attorno a questo mondo in Italia come in Europa. Andiamo in onda in piena estate, stagione purtroppo prediletta dai cosiddetti topi di appartamento che, approfittando delle vacanze, si introducono nelle case disabitate e le saccheggiano. Il riferimento chiaramente non è casuale. In questa trasmissione parliamo infatti di furti e di rapine e decliniamo l'argomento in ambito stradale. Affrontiamo quindi un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale e a prescindere dalle stagioni, il fenomeno delle razzie e degli assalti ai danni dei tir e dei furgoni. Avviene sulle autostrade, avviene anche all'interno delle aree urbane. In azione talvolta ci sono vere e proprie bande specializzate in questa attività criminale, come hanno dimostrato varie indagini condotte dalle forze di polizia. E poi allargheremo il discorso anche ad altre pratiche predatorie, diciamo così, che si manifestano sempre in ambito stradale. Non possiamo parlare nei termini di una vera e propria emergenza, ma certo si tratta di una questione particolarmente sentita da chi ogni giorno e ogni notte, durante il suo lavoro e i suoi spostamenti, deve fare i conti con il rischio di finire sotto le attenzioni di ladri e rapinatori che mirano alla merce trasportata. Innanzitutto i numeri che rendono bene il quadro generale, quindi le tendenze di quello che la Polizia Stradale ha definito il cargo crime. Nel 2015 i furti e le rapine messi a segno ai danni degli autotrasportatori sulle autostrade lungo la viabilità ordinaria sono stati 2.275. Nel 2014 gli episodi denunciati erano stati un po' meno, 2.071. Significa che si è registrato un aumento di poco superiore al 10%. Ma come sentiremo, i dati relativi ai primi mesi del 2016 indicherebbero un'inversione di tendenza piuttosto significativa, anche se chiaramente i conti si potranno tirare solo alla fine dell'anno. A giugno, e questa è una novità, si è insediato l'Osservatorio Nazionale sui furti e le rapine ai danni degli autotrasportatori, cioè un organismo che monitora la situazione sulla base delle indicazioni che giungono dai vari soggetti coinvolti. Dell'Osservatorio fanno parte infatti i rappresentanti di tutte le forze di polizia, il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, che riunisce le associazioni ANAS e AISCAT, praticamente una cabina di regia allestita per perfezionare gli interventi sia in termini preventivi che repressivi e quindi provare ad innalzare gli standard di sicurezza anche laddove i margini di vulnerabilità appaiono piuttosto alti. Al nostro microfono Roberto Sgalla, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato. Qualsiasi strategia che fa del trasporto un elemento fondamentale, qual è appunto il trasporto merci. In Italia oltretutto l'80% viaggia oggi su gomma, anche se l'auspicio è di una intermodalità, quindi uso anche del ferro, delle navi, ma oggi viaggia su gomma. E quindi il tema della sicurezza su due versanti, sicurezza stradale per quanto riguarda l'incidentalità. E devo dire, da questo punto di vista, il mondo dell'autotrasporto è quello che in proporzione crea meno incidenti. Certo, quando succede un incidente con un tir, gli effetti sono devastanti, quindi anche la comunicazione esalta, enfatizza l'incidente, ma sul piano dei dati statistici sicuramente è contenuto rispetto agli altri veicoli. E poi l'altro elemento di sicurezza è quello che noi ormai abbiamo definito il cargo crime, e cioè noi abbiamo insediato l'osservatorio contro i furti e le rapine dei tir, perché abbiamo assistito al 2015 a un incremento di furti e di rapine, probabilmente legato anche al fenomeno della crisi. I primi mesi del 2016 invece sono molto confortanti, i dati sono in netto decremento, alcune aree che sono particolarmente purtroppo vocate, oserei dire, o comunque interessate da questi fenomeni, la Puglia e la Campania, sono state aggredite molto bene dai nostri operatori, dalle donne e degli uomini della Polizia Stradale. Lei pensi che solo in Puglia noi abbiamo arrestato in 5 mesi oltre 30 persone dedite ai furti e alle rapine dei tir. Ma entriamo nei dettagli del cosiddetto cargo crime. Focalizziamo meglio quali sono le aree più a rischio e quali le categorie merceologiche più ambite da ladri e rapinatori. Lo facciamo con Giuseppina Minucci della Divisione di Polizia Giudiziaria del Servizio Centrale della Polizia Stradale. La Puglia praticamente è la regione che detiene il primato per quanto riguarda questi episodi. Segue il Piemonte, l'Emilia-Romagna, E quindi praticamente riteniamo che le arterie, no, riteniamo, ci sono dati statistici che effettivamente ci confortano che le arterie autostradali più interessate sono la 14 e la 1. Un'altra cosa caratteristica sono gli orari, pure perché gli orari dove, che vengono praticamente presi di mira dalle organizzazioni criminali sono l'arco orario che va dalle 24 alle 4 di notte, quindi nel pieno della sosta notturna del mezzo. Le cose più ambite, nel senso, possono essere l'elettronica come bene di consumo, come telefonici, tablet, smartphone, computer o anche pneumatici, alimentari, abbigliamento, cosmetici, prodotti igienici. Dicevamo, talvolta in azione ci sono vere e proprie gang che chiaramente possono contare su canali di smistamento e ricettazione della merce rubata. Le indagini hanno dimostrato che in taluni casi si è trattato di veri e propri colpi su commissione ispirati da basisti ben informati, cioè si è preso di mira un determinato carico del quale era noto il passaggio lungo una certa strada, un certo giorno, più o meno ad una certa ora. Succede così che i tir nel mirino vengano seguiti e poi, quando si ritiene sia arrivato il momento più favorevole, assaltati. In generale, più alto è il valore della merce trasportata, più elaborato è il piano studiato e poi messo in pratica dalla gang, in questo caso formata da banditi professionisti. Ma come sentiremo, talvolta la scelta dei mezzi da razziare può essere anche casuale. Ma qual è il profilo criminale di chi prende di mira i mezzi pesanti e i loro carichi? Ancora Giuseppina Minucci della Divisione di Polizia Giudiziaria del Servizio Centrale della Polizia Stradale. Diciamo praticamente si contraddistinguono in due categorie, in gran parte sono è proprio ragione degli arresti che noi abbiamo effettuato, possiamo dire che due sono le categorie che solitamente effettuano questo tipo di reato, o bande pugliesi, in prevalenza pugliese, nelle province di Andria, Bitonto, Cerignola, oppure campani. Sentiamo ora quali sono le tecniche seguite dai predatori, quali le misure preventive, le condotte di prudenza suggerite dalla polizia per limitare i pericoli e quindi determinare migliori condizioni di sicurezza. A volte si tratta di precauzioni semplici da adottare. C'è il vecchio modo che continua ad essere quello del taglio del telone, quindi come tale sicuramente più sensibile un telonato rispetto a uno che ha furgonatura esterna. Ma è anche vero che troviamo situazioni in cui questa furgonatura viene forzata. Abbiamo anche però autotrasporti che sono dotati di sistema tipo antintrusione o che richiama l'autista in sosta o che sono piuttosto performanti. Abbiamo anche più volte dato sollecitazioni agli autotrasportatori di evitare soste isolate, di mettersi in aree piuttosto illuminate, di cercare di parcheggiare evitando che il lato posteriore possa essere dell'autotrasporto possa essere isolato. Quindi invitiamo gli autotrasportatori a parcheggiarsi in modo tale da non lasciare spazio al portellone posteriore, quindi due furgoni uno dietro l'altro. Proviamo ora a raccontare questo fenomeno dal punto di vista degli autotrasportatori, cioè da parte di chi è costretto a fronteggiare le insidie ogni giorno e ogni notte, quindi inevitabilmente condizionato nella sua attività da questo rischio ricorrente. Massimo Bagnoli è il presidente di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Sembra essere andati di moda i furti parziali, ossia gli assalti che possono fare ai camion che sono fermi dove gli autisti riposano e sono presi di mira soprattutto i telonati. E cosa succede? Questo è il furto più semplice e anche quello più impunito, in quanto si approfitta delle ore notturne, tagliano il telone e riescono a fare dei danni ingenti. È complicato anche riuscire a porci un freno, perché poi ci sono anche le flotte, magari delle aziende che sono tutte telonate e non hanno previsto coibentazioni o altre furgonature. Si ha l'impressione che si vada anche per tentativi, perché i teloni tagliati sono sempre di più, quindi magari ci possono essere bande organizzate, perché poi vediamo che hanno le basi di scarico dove portano la merce rubata a poca distanza da dove fanno i colpi. Però si vada un po' per tentativi. Quindi tagliano, non so, cinque teloni e non in tutti i mezzi c'è il materiale appetibile. Per un'azienda di autotrasporti, come e quanto incide il fatto di aver subito un furto o una rapina? Incide perché comunque ci sono dei contenziosi enormi. Pensiamo che quando sottraggono dei cartoni normalmente da un carico di colletame e si vanno a incidere diverse spedizioni, quindi al di là del poi dopo avere a destino i problemi che si ripercuotono su tutte le varie microconsegne che si devono svolgere, perché normalmente sono attaccati i mezzi che portano abbigliamento, scarpe, merce griffata facilmente piazzabile nei mercati, diciamo, irregolari. Microfurti che poi portano a centinaia di migliaia di euro di danni. Come diciamo dall'inizio di questo speciale di hashtag autotrasporti, i numeri ci dicono che furti e rapine seguono tendenze statistiche un po' schizofreniche. Nel 2015, dicevamo appunto, si è registrato un aumento di circa il 10%, mentre i dati parziali del primo semestre 2016 indicano un calo degli episodi. Ma come possono difendersi? Come si difendono gli autotrasportatori e le aziende? E cosa chiedono? Ancora Massimo Bagnoli di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Ancora le più classiche, le più tradizionali, che sono quelle degli impianti satellitari, dei GPS magari non alterabili perché nascosti all'interno del mezzo. Ancora non se ne conoscono altri di più efficaci. Quello che c'è è che noi siamo soliti a tracciare il mezzo e non la merce, quindi spesso la merce viene poi trasbordata in altri camion, e quindi si ritrovano alle volte i camion vuoti, scarichi, la merce non c'è più. Videocamere nelle poche aree di sosta che sono riservate agli autotrasportatori e andrebbero anche le aree di servizio, che ormai sono diventate le nostre aree di sosta, magari maggiormente presidiate. Cosa si può fare? L'azienda si cerca di difendere, magari girando in due, cercando di mettere tutti gli impianti possibili, però sarebbe necessario presidiare le aree di sosta dove noi tutti ci fermiamo a riposare. Secondo i dati resi noti dalla Polizia Stradale relativamente a quanto avvenuto sulla rete autostradale, tra il 1 gennaio 2015 e il 31 maggio 2016 in Puglia sono state messe a segno 16 rapine ai danni dei TIR. A queste vanno aggiunti 41 furti. Scorrendo la lista, la seconda regione più esposta è il Piemonte. Rispetto alla Puglia le rapine sono state un quarto, cioè 4. Al contrario, risulta più alto il numero dei furti compiuti ai danni dei mezzi pesanti, 47. Nella graduatoria, che ripeto riguarda gli episodi denunciati in ambito autostradale, seguono Lombardia ed Emilia-Romagna. Quindi è la Puglia la regione più a rischio, gli assalti avvengono in autostrada come sulla rete ordinaria. E dalla Puglia arriva questa testimonianza. Francesco Lionetti è il titolare di un'impresa di autotrasporti. A maggio, vicino Barletta, uno dei suoi autisti è alla guida di un mezzo diretta ad un centro commerciale, è stato assaltato. Ascoltiamo il racconto. Si era avviato, stava prendendo una strada, la strada statale 16, insomma, si era appena avviato, era uscito dal nostro parcheggio per andare a scaricare il mezzo. Dopo aver percorso poche centinaia di metri, insomma, è stato fermato da degli individui che l'hanno minacciato sotto la minaccia di armi, anche pesanti. Li hanno costretto, insomma, ad arrestare la marcia e a consegnargli l'automezzo, che era appunto carico di merce. Generi vari, yogurt, insomma, roba alimentare. Si aggiravano intorno ai, non so, dico una cifra così, intorno ai 20-30 mila euro. Da quello che mi ha riferito il mio dipendente, l'autista, ha detto, insomma, 3 o 4 persone, tra cui uno che si è messo alla guida dell'automezzo, e hanno sequestrato l'autista portandolo con loro in un'autovettura, l'autovettura con la quale l'hanno fermato, e uno della banda ha continuato, insomma, il viaggio con il camion, portandolo non so dove. L'autista l'hanno trattenuto con loro per un paio d'ore, mi ha detto che poi l'hanno rilasciato molto lontano dal luogo, diciamo, dal quale l'hanno fermato. In Puglia per gli autotrasportatori quindi il rischio di finire nel mirino delle gang è decisamente più alto che altrove. Lo dicono le statistiche, lo confermano le preoccupazioni quotidiane da parte dei titolari delle aziende e degli autisti alla guida dei mezzi. Ascoltiamo ancora la testimonianza di Francesco Lionetti. Ho saputo anche di colleghi, insomma, che hanno subito la stessa nostra, il stesso nostro, posso dire, episodio criminale, con, diciamo, cariche anche di valore non molto importante, però comunque ormai non fanno più caso, penso, ai carichi che abbiano valore o meno. penso che sia un'accusa, insomma, a chi capita capita. Penso che questo sia diventato un episodio che ormai, cioè, praticamente tutti fanno, penso che adesso le attività criminali tutti fanno tutto praticamente. Quindi alla fine penso che siano anche, può darsi che siano bande anche che non abbiano niente a che vedere una tra l'altra, insomma, almeno credo. Non ci sono solo i mezzi pesanti nel mirino di ladri e rapinatori. Le razzie avvengono anche ai danni dei furgoni impegnati nelle consegne all'interno delle aree urbane. Si tratta soprattutto di furti con destrezza, difficilmente infatti viene sottratto il mezzo. Spesso questi episodi sfuggono alle statistiche nazionali. Per monitorare quest'altra faccia del fenomeno abbiamo sentito Guglielmo Nardocci di Fedit, l'associazione dei Corriere Espresso che fa parte dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. La situazione non è, come dire, paragonabile a quella degli automezzi pesanti. I furgoni non ci rubano, si rubano le merci all'interno dei furgoni. E quindi le misure di sicurezza che sono state prese dalle aziende vanno più in direzione dell'assicurazione delle merci e dei mezzi, per così dire, di ultima generazione, come informatica, sistemi di allarme, satellitari, eccetera, in quella direzione. Peraltro, questo richiederebbe un'analisi, nel senso che è più facile, in quei casi, essendo rapine veloci, rapine meno visibili di un grande autotreno che si fa difficoltà a svuotare, no? Quindi dal punto di vista del ladro, per così dire, è una casistica diversa, quindi è anche diverso il modo di, come dire, di cautelarsi. Dai centri urbani torniamo sulle autostrade, dove si sperimentano misure preventive per rafforzare gli standard di sicurezza, misure che sono scattate proprio in queste settimane. Paolo Berti è il direttore centrale Operations di Autostrade per l'Italia. La tematica specifica è un tema di polizia stradale, un tema di sicurezza, un tema di safety, quindi insomma è a loro che sta il monitoraggio e diciamo la repressione di questi fenomeni di furto sui mezzi pesanti. Dati specifici noi non ne abbiamo, l'unica cosa che possiamo dire è che c'è un piano di potenziamento delle aree di servizio perché i furti non avvengono principalmente nelle aree di servizio, ma quando si effettua il cosiddetto wild parking, cioè quando il camion viene parcheggiato o in corsia di emergenza, o nelle piazzole, in aree di parcheggio, dove sono aree meno frequentate. Quello che stiamo facendo è potenziare le aree di sosta, cioè le aree di servizio dove c'è la presenza del food e dell'oil, e in queste aree in particolare stiamo implementando, ne abbiamo già fatte 30, un servizio di telecamere dome dalle torri faro, che permette alle persone, a questi automobilisti che quando si staccano sono le telecamere real time, quindi questi automobilisti quando si staccano per dover andare in bagno, per dover andare a mangiare un po' di pasta o per prendersi un caffè, accendendo la nostra app possono vedere la situazione del loro camion e quindi fare un self-control, un autocontrol della situazione del camion in tempo reale. L'idea è estendere queste telecamere in tutte le aree di servizio in maniera tale che loro possano in qualche maniera controllare il loro camion, cioè tutto ciò che trasportano da remoto. Quali i carichi e quali i tratti più a rischio lungo la rete autostradale? I camion di elettronici e i camion di farmaci sono i camion che per cubatura e diciamo, livello economico dell'oggetto trasportato sono quelli più che sono più appetibili, no? E quindi sicuramente i percorsi che vanno ad esempio da Bari verso il nord oppure dal nord verso Roma, che sono dei transiti dove ci sono le zone farmaceutiche, le zone elettroniche principali, sono sicuramente le zone o i transiti che sono più appetibili per chi si occupa di fare questi furti, in particolare di questa merce. Nella prima parte di questo speciale di hashtag autotrasporti abbiamo sentito che negli ultimi mesi le forze di polizia hanno sgominato batterie di ladri e rapinatori. Anche su questo fronte qualche dato. Tra il 1 gennaio 2015 e il 31 maggio 2016 sono finite in carcere 102 persone responsabili a vario titolo di razzie e danni dei mezzi pesanti. Per 69 di loro si è trattato di arresti in flagranza. Nello stesso periodo è stata recuperata merce per un valore di poco inferiore ai 3 milioni di euro. I contratti contrasto a questi fenomeni passa attraverso l'attività preventiva e repressiva da parte delle forze di polizia, la cui presenza sul territorio, peraltro, è condizionata da carenze di organico ormai croniche, ma può dipendere anche dalle forme di autodifesa e protezione adottate dagli autotrasportatori. A questo proposito esiste un progetto già avviato basato su un monitoraggio particolarmente sofisticato dei mezzi e delle merci trasportate. L'ideatore è Sergio Sdrian. Il progetto GNSS è un progetto innovativo basato sul monitoraggio satellitare. A differenza di altri GPS tradizionali, questo sistema di monitoraggio usa le postazioni terrestri, quindi aumenta la precisione dello strumento. Potrebbe prevenire i furti essendo attivo 24 ore su 24, quindi il monitoraggio sui mezzi è costante. Il progetto parla anche della tracciabilità delle merci, quindi la merce rubata che è tracciata, piazzare insomma questa merce sul mercato potrebbe diventare anche più difficile. Questo progetto ha già ottenuto il via libera da Bruxelles e secondo i promotori potrebbe risultare uno strumento importante anche per il contrasto di altre forme di illegalità, a partire dal cabotaggio abusivo, cioè la pratica seguita da molti operatori stranieri che effettuano trasporti nazionali senza rispettare le condizioni e limiti previsti dalla normativa comunitaria. Questo progetto è già stato approvato come progetto pilota con la tripla A ed il massimo dei voti. Il progetto potrebbe seguire una serie di cose, dumping sociale, cabotaggio, contrabbando del gasolio. Solo il fatto che con questo progetto potremmo monitorare dei parcheggi, conoscere in ogni momento quanti posti disponibili abbiamo, sarebbe un forte vantaggio. Lungo le strade imperversano anche altre categorie di predoni. Non mirano alle merci in transito, ma alle infrastrutture, più in particolare al cosiddetto oro rosso, cioè il rame con il quale sono fatti i cavi. Alla radio e sui giornali se ne sente parlare soprattutto in ambito ferroviario. È capitato infatti che la scarnificazione dei cavi abbia provocato l'interruzione del transito dei treni lungo varie linee su e giù per la penisola. In realtà accade pure sui nastri d'asfalto, soprattutto lungo le strade a scorrimento veloce senza pedaggio, anche se di questo si parla un po' meno. Ci racconta quello che succede l'ingegnere Roberto Mastrangelo della direzione di esercizio di ANAS. Diciamo che siamo passati dalla asportazione del semplice cavidotto, quindi dei cavi in rame, alla distruzione, all'asportazione di tutta la componentistica che è a servizio, quindi gli armadi, i quadri elettrici, tutto ciò che può avere una rivendibilità e può avere del materiale che ha un certo pregio viene asportato, ma soprattutto viene danneggiato. Ma sentiamo quali possono essere le conseguenze provocate dall'azione dei predatori di oro rosso. Si determinano problemi di sicurezza che per le gallerie sono molto rilevanti, perché potremmo arrivare alla necessità di dover chiudere una galleria. C'è successo sul GRA, il grande raccordo anulare di Roma e la Roma-Fiumicino, che è un'arteria fondamentale, di dover parzializzare le gallerie perché il mancato funzionamento degli impianti di ventilazione ci ha costretto a ridurre il numero dei veicoli che potevano circolare in galleria. Quindi abbiamo dovuto parzializzare la carreggiata. Si può arrivare alla chiusura in gallerie lunghe che hanno impianti antincendio che sono necessari e fondamentali per il funzionamento della galleria stessa. A fronte di questo assalto sistematico, ANAS ha dovuto correre ai ripari. Ancora l'ingegner Roberto Mastrangelo. Abbiamo la necessità innanzitutto di nascondere questi impianti alla vista, quindi di realizzare cavidotti interrati che con pozzetti anti-effrazione, ma a loro volta difficilmente individuabili. Stiamo usando conduttori di tipo diverso, conduttori in alluminio che al momento risultano meno appetibili del rame, anche se non hanno le stesse caratteristiche. E poi una serie di dispositivi, diciamo, antifurto, che vanno dai sistemi di videosorveglianza, sistemi di blindatura degli armadi, sensori che segnalano alle sale operative se un cavo viene sfilato, cioè un tentativo appunto di sfilare il cavo. Quindi tutta una serie di dispositivi che ci possano consentire di evitare evitare o di essere allertati nel momento in cui c'è un tentativo di infrazione dei nostri impianti. Questo speciale di Hashtag Autotrasporti finisce qui. In questa puntata speciale abbiamo parlato di fenomeni criminosi lungo strade ed autostrade. Vi ricordo che il programma di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti va in onda tutti lunedì alle 13.45. Grazie per l'attenzione. Un saluto da Andrea Ferro. Hashtag Autotrasporti.